Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Quando si dice un uomo sicuro di sé, beh, si dice e si vede. Al colpo d'occhio è facile individuare un uomo che sa esattamente il fatto suo. Sa da chi deve guardarsi e soprattutto emana un messaggio che, tradotto in termini volgari, sarebbe: non mi dovete rompere le scatole. Quest'uomo sicurissimo di sé ha naturalmente una forma fisica invidiabile, ha sicuramente una postura che mai mi sarei sognato di avere in vita mia, nemmeno quando avevo 15 anni, ha sicuramente quel senso di sicurezza che dà lui carisma. Vorrei capire qual è il suo segreto. Capita delle persone totalmente inermi spesso di essere aggrediti per strada. Una persona che non ha nessuno strumento o prende le botte o scappa o cerca di difendersi in maniera, diciamo così, improvvisata. Chi ha modo invece di potersi difendere come lei? Che tipo di atteggiamento prende? Faccio un esempio della mia aggressione che ho avuto io qualche tempo fa. In normalissima serata uscivo dal cinema con gli amici, mi sono fermato al classico distributore di sigarette che c'è sulla strada, sai, quei distributori automatici per prendere le sigarette, e sono stato avvicinato da una persona che ho visto che era visibilmente in stato confusionale, non so se ubriaca o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, comunque ben poco conta, comunque era una persona alterata. Mi ha chiesto una sigaretta, io gli ho offerto la sigaretta e lui a un certo punto mi ha strattonato cercando di premere tutto il pacchetto. In sé capisce che non è il furto in sé del pacchetto, era proprio una persona alterata che probabilmente cercava lo scontro, aveva qualsiasi motivo per aizzarsi contro di me. Cioè lei ha offerto la sigaretta e lui ha brancicato tutto il pacchetto. Lui mi ha chiesto una sigaretta col fare un po' da ubriaco, insomma, mi dai una sigaretta così. Io gli ho detto certo, l'ho appena presa, gliel'ho data. Quando gli ho dato la sigaretta, io ho il pacchetto nell'altra mano, mi ha strattonato buttandomi contro il distributore cercando di portarmi via il pacchetto delle sigarette. Io, che per fortuna, nel senso, ho fatto 3 anni Krav Maga, che è un'arte marziale israeliana. L'arte okay. Di difesa del Mossad, della polizia segreta israeliana, micidiale. Esatto, che è stata inventata proprio per insegnare i soldati in breve tempo, piuttosto che il carattere che viene molto tempo, a sapersi districare e difendersi, soprattutto nei combattimenti ravvicinati. Quindi proprio in questo caso. Non è, diciamo, coreografico come il karate o il judo. È una cosa proprio che serve più pratica, per difendere. È pratica e basta. Esatto, è molto più pratica, perfetto. Però io, conscio di quello che mi hanno insegnato a scuola, la mia reazione non è stata altro che metterlo in condizione di essere pericoloso per me, nel senso, l'ho semplicemente preso, strattonato, buttato a terra e sono scappato dentro la mia auto che era ferma con le 4 frecce a poche distanze e sono andato via. Ma se gli lasciava le sigarette e se ne andava non era più facile? No, scusi, ma gli lasciava le sigarette, amen, è un pazzo. No, lo so, però io avevo 2 braccia attorno al collo e mi ha aggredito. Ah, lui dopo aver preso le sigarette le è saltato addosso, ecco. Sì, sì, perché io ho ritratto la mano perché non volevo dargli il pacchetto, lui a questo punto si è proprio inveito, mi ha preso le mani al collo e mi ha buttato contro il distributore delle sigarette. Ah beh, grazie, allora sì. Allorché io sono riuscito a smobilizzarmi, buttarlo a terra, ed essendo magari anche ubriaco non era molto lucido per corrermi dietro per fare qualcosa, e sono scappato via in macchina. Ah, non l'ha finito, guardare a terra non l'ha finito? come dice il manuale? Assolutamente no, assolutamente no. Perché da manuale quando il nemico è a terra va finito, non si lascia vivo. No, no, no, no, no, no. Questo lo insegnano in, almeno in tutte le scuole di arti marziali, che è una cosa fondamentale, e le spiego per due motivi. Il primo, perché se io gli avessi fatto del male, avessi ferito su di lui, io posso prendere una denuncia per eccesso di difesa. È una cosa molto importante che tanti non sanno. Tutti quelli che hanno frequentato scuole di arti marziali o che hanno delle testate di arti marziali, se si difendono in strada e utilizzano le loro tecniche contro una persona che non ha equal tecnica, e io gli causo un danno perché so come farlo, perché so come picchiare, è come se fosse armato praticamente, ecco, considerato. Esatto, questa persona mi può denunciare e vado nel torto io. Quindi perché loro dicono sì, tu ti sei difeso ma hai usato la tecnica di arte marziale, certo. E gli hai causato dei danni. Quindi non bisogna esagerare mai, mai. La cosa migliore che ci hanno sempre insegnato è mai cercare lo scontro, mai, mai, di vincolarsi. Perché poi questo, i Krav Maga poi insegnano anche quei corsi che fanno adesso, sono molto di moda tra le ragazze, le donne, quando questi corsi di autodifesa per divincolarsi dal malcapitato di turno, ecco. Quelli sono proprio la base del Krav Maga, che è un discorso di colpire ma per scappare, non per infierire. Mai, assolutamente. Anche perché si va dalla parte del torto. È molto pericoloso. È una cosa che è molto, molto, molto, molto delicata. La cosa che posso capire io, e l'ho imparato facendo allenamento, è il sangue freddo, perché purtroppo il problema, come sentivo in radio dicevano tante volte, vivere quel momento lì, ci passano mille pensieri per la testa e reagire con freddezza è molto difficile, veramente molto difficile. Dal mio punto di vista, aver fatto un allenamento specifico e aver simulato mille volte un'aggressione in palestra, naturalmente, dove ti insegnano, ti aiuta quantomeno a leggere un po' di più la situazione. Quindi questa volta lei si è limitato a liberarsi del pericolo, poi se n'è andato, quindi esatto. Non ha fatto nessun male a nessuno, ecco, in fondo. Esatto. Nessuno esatto. Si è fatto male questo, veramente, diciamolo così. Esatto, lui è solo caduto per terra, gli ho dato sicuramente un colpo all'addome, l'ho buttato per terra, ma solo per fare in modo che rimanesse a terra quei 2-3 secondi, che avevo la macchina vicino per salire in macchina e scappare via. La mia intenzione non era né di fargli del male né di altro. Assolutamente. Ma guardato una cosa che io sconsiglio a tutti. Con la coda dell'occhio se si rialzava o se rimaneva a terra, ci ha fatto caso? Sì, assolutamente sì, anche perché io ho notato bene, cioè nel senso, ero per fortuna sul marciapiede aperto. Mettiamo che io l'avessi spinto, l'avessi urtato, lui cadeva e mi batteva la testa sul marciapiede. Ah, certo, è chiaro. Io ero morto, io, cioè nel senso, ero morto, sì, io, sì. La mia vita era finita. Bisogna stare attento, ecco. Chiaro. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non sappiamo che intenzioni ha, non sappiamo se una persona che magari ci rintraccia, la picchiamo, poi magari ci aspetta sotto casa o ci vendica in altri modi. Quindi la cosa migliore è cercare di sempre di interrompere il conflitto, di uscire dal suo raggio e scappare. Senti, e questo voglio consigliare a tutti. Nei tuoi viaggi all'estero invece hai avuto altre occasioni di mettere in atto questa tua capacità di difenderti? Sì, per fortuna non direttamente, ma è capitato ad esempio una volta che ero in Ungheria per lavoro e ero andato su in macchina, ero vicino a Budapest e sono stato inseguito di notte da un distributore, ero fermo a fare benzina in un distributore e come sai in Ungheria le pompe vanno anche di notte, lì c'è l'omino comunque dentro, non è come in Italia, lì c'è sempre il servizio. Io mi sono rimesso in carreggiata, era una strada abbastanza scura perché uscivo da Budapest e dopo pochi chilometri mi sono trovato una macchina dietro che ha cercato prima di tamponarmi, poi mi lampeggiava. E poi mi sono usciti dal finestrino con una mazza da baseball. Vabbè, erano belli attrezzati anche questi. Erano lì. Sì, ma succede spesso nell'est Europa, purtroppo, che nelle zone molto buie, soprattutto quando sanno che ci sono queste strade di scorrimento dove c'è molta campagna, o urtano la macchina e fanno finta di urtare la macchina e con la scusa di una constatazione amichevole si fermano e tentano di rapinarti, oppure ti minacciano e ti costringono a fermare la macchina. Diciamo che è la versione hard del trucco dello specchietto, che fanno finta di rompere lo specchietto. Esatto, esatto, esatto. La mia fortuna è stata che c'era uno sbocco, uno svincolo dell'autostrada, sono uscito, c'era un paesino, ho trovato un cancello, mi sono infilato nella casa di questo di questa persona molto sentita che non sa ma mi ha ospitato, e mi sono infilato lì, ho seminati, però attenzione, non è che fossi io, nel senso, se mi fermavano questi magari entrare con una mazza da baseball, sarei stato malmenato, non so che fine avrei fatto, quindi mi è andata bene anche. Non ne usciva vivo, però, può essere, mica è uno scherzo, lo so, è difficile. E purtroppo però quello che mi consiglio io comunque è soprattutto di imparare a gestire queste situazioni, ma rispetto a noi stessi, perché non possiamo gestire l'altro, ma possiamo gestire noi stessi. Capire e sapere come reagire senza mai farsi prendere dalla foga di dire, non so, ho una bottiglia in mano, gli spacco la bottiglia in testa, o sono più grosso, lo picchio. Sì, una volta può andare bene una volta, ma mica detto sempre, uno con un coltello. Esatto, anche perché uno può essere grande e grosso, ma se trova una persona che ha fatto arti marziali o comunque che è addestrata in combattimento ravvicinato, anche se grosso, lì le insegnano a colpire i punti vitali, quindi sotto il mento, sotto il naso, dove scorre il sangue, dove ci sono i vasi capillari molto sensibili, e anche se uno è grosso 2 metri, un'emorragia al naso in 2 secondi è anche un annetto di raccogliere. Quindi è per quello che dico, non sappiamo mai chi abbiamo di fronte, anche perché uno non sa mai esattamente il livello di decisione e spregiudicatezza della persona che ha avanti. Uno può essere anche mingherlino con un temperino, ma è molto spregiudicato e ti può sgozzare in un secondo. Non è che tu puoi dire ma sta solo un temperino, perché uno può essere ammazzato anche con molto meno, tutto sommato. Anzi, assolutamente può essere. Io ad esempio, una cosa pericolosissima che ci hanno insegnato nei nostri corsi, le viro sono una cosa pericolosissima. Nei film di spie è frequente vedere quello che si difende e uccide uno infilandogli una penna biro sotto l'orecchio. È da manuale, da film, capito? Esatto, ma anche sotto la carotide, in un'aggressione. Io non ho un coltellino, ma se ho una penna, possiamo dire la marca. Sì, una BIC, quelle classiche, la classica penna. Esatto, e io ho una forza di un certo tipo e io lo spingo contro, pure gliene infilo sotto la carotide. Certo. C'ha fatto. Non serve un coltellino neanche. Però se uno è in grado di fare queste cose e ha la spregiudicatezza per farlo, è pericoloso anche un mingherlino di 1,60 m. Quindi bisogna stare attenti. Per quello che dico, non sappiamo che abbiamo di fronte, quindi è sempre meglio non provocare o non addentrarsi in un contatto corpo a corpo, solo se necessario. Certo, se mi trovo uno che mi porta il coltello al collo, se posso fargli del male per potermi difendere, potermi scappare, sono in grado, mi sento di farlo, lo posso fare. Ma se uno mi spintona, ad esempio, mi provoca, che sono le classiche, diciamo, risse da discoteca che sono successe a tutti, è sempre meglio evitarlo. Grazie, consigli preziosissimi, spero che non mi accada mai in treno. Grazie, buon viaggio, a presto. Buon viaggio, a presto. E chi ti rivedo questa mattina in treno? Eccola, lei. La ragazza che tante volte ho incrociato, che mi raccontava le sue turbe amorose, quanto influisse la sua natura sentimentale nella difficile scelta di un posto di lavoro, le sue angherie subite proprio per il fatto di essere tenera, disincantata, romantica. E poi, finalmente, in uno dei tanti viaggi in cui la incrociavo, è arrivato l'amore, è arrivato il fidanzato, è arrivato l'uomo in cui lei sperava di poter riporre tutti i più rosei sogni per una sua vita futura. Oddio, un fidanzato che io, con sin troppo facile estro, vaticinai, caduco, effimero, destinato a morire. E lei insisteva, no, mi ama, mi vuole bene, mi ha anche regalato un anello di legno. Beh, colei fidanzata con l'anello di legno è davanti a me, senza anello e totalmente trasfigurata. Gliel'hai rimandato indietro l'anello, sì, di legno? Ridi, sei contenta? No, mi viene da ridere. Perché? E tu mi raccontasti tempo fa questa cosa romantica, una notte eravate andati, non so dove, a matrimonio di un'altra donna, cosa? A un matrimonio a Catania, lui mi aveva regalato un... E la notte ti regalò un anello di fidanzamento di legno? Sì. Te l'ho detto però che la fragilità del legno non era garanzia di un eterno amore. Sì, no, dovevo capire che non andava... Allora, praticamente quell'anello era troppo grande per le mie dita. Perché l'aveva riciclato, era di qualcun altro. No, anzi, scusa, era troppo piccolo, quindi... Lui avrebbe dovuto lavorarlo con la carta vetrata. Con la carta vetrata per poi farmelo. Anche Black & Decker, cioè lo scovolino che allarga. E io ho fatto un test. Ho detto, ok, io prendo quest'anello, non gli dico Ah, amore, mi devi... Poi non l'hai potuto... infilato devi... nel mignolo? No, no, l'ho preso e l'ho messo nel portafoglio. E ho detto, vabbè, io non gli dico nulla che me lo deve scartavetrare. Vediamo se ci pensa lui. Non ci ha mai pensato. E non c'è mai. È rimasto nel portafoglio per quanti mesi? Allora, lui me l'ha regalato a luglio. È rimasto lì fino a ottobre. Ma quando vi vedevate diceva, lasciati. Ma come, tu non porti il mio anello? Non te lo diceva? Non me lo chiedeva mai. Sì, per lui non aveva nessun significato. Non aveva nessun significato. Infatti è una roba da donna, l'anello di fidanzamento. È un po' ancien regime, no? Vabbè. Non e tu nel portafoglio portavi sto cerchiettino di legno? Sì, che era un po' soldi. Sempre il simbolo della mia sconfitta, continuare ad averlo nel portafoglio. Non c'è un addosso. Po' di masochismo però, no, in questo. Sì. Quindi tu a luglio non avevi ancora realizzato che l'amore non esisteva, era finito la parte. No, non avevo ancora realizzato poi. Quanti mesi ci hai messo per capirlo? Ma l'ho capito quando lui mi ha detto che non mi voleva più. E quando te l'ha detto? Me l'ha detto a fine ottobre. Luglio, agosto, settembre, ottobre, 3 mesi sono passati. Sì. È tanto che non ci incontriamo. Dalla mia profezia però ti dissi che guarda che non esisteva più questo amore. Sì. Tu avevi investito molto, lo amavi? Sì. Sì o no? Non lo so se lo amavo, forse mi ero fissata. Ah, ti eri fissata? Sì. Beh, allora lui giustamente ha detto perché devo mettermi con una fissata? Però si è pentito un po' di avermi lasciato adesso. Vabbè, quella è la ripresina, non è che si è pentito. La ripresina, sì. Tu l'hai escluso dalla ripresina, sì? Sì. No, sii sincera. Non l'hai, vedi? Vedi, ti sei tradita. Quindi gli hai Ma chi ti dice che non sia stata mia la ripresina e non sua? Vabbè, senti, noi lasciamo sempre chiedere alle donne questa cosa. Alla fine basta che c'è la ripresina. Quindi c'è stata anche una ripresina, sì. Vabbè, quello è normale. E quindi dopo la ripresina avete capito che era proprio solo una ripresina, non c'era più niente da fare. Esatto, adesso siamo amici. Sì, amici, me l'immagino. Non so. Vi sentite al telefono ogni tanto? Ogni tanto. E per dirvi, ma che vi dite al telefono? Allora, l'ultima volta gli ho chiesto se mi dava i suoi dati della carta di credito, perché dovevo riattivare iTunes, che ero andata a zero, quindi gli ho chiesto... Scusa, non potresti farti un nuovo account con la tua carta di credito? Ma no, cioè, avevo un problema, dovevo farlo immediatamente, quindi gli ho chiesto i dati della carta di credito. E te l'ha dati? Subito. Quindi puoi attingere al suo conto? Sì. Beh, poi diciamo... adesso compro tutti i dischi e li metto in conto a lui. Però vedi, cercate di riallacciare come delle scappatoie perché possa continuare il legame. Perché fate questo? Non lo so. Vuoi tenertelo in caldo? Alla fine mi fa piacere averlo. Beh, mica dico, anche a noi fa piacere avere tante donne in giro per il mondo, divertente. So. E comunque, quanto ci hai messo per sostituirlo? Ancora non è stato sostituito. Beh, dai... Parli della carta di credito o di lui? No, lui. Ok, no. E lui ancora non sono riuscita a sostituirlo. Ma dai. Ma non io sembro invisibile. Cioè vado nei posti e niente. Non... Stai bluffando, dai. No, giuro. Hai il volto appagato una donna che ha già trovato un nuovo amore. No. Io ti vedo notevolmente cambiata l'ultima volta. Cambiata nei capelli, nel modo di vestirti, nella sfrontatezza nel porti. Quindi tu sei comunque su piazza in questo momento. Sì, ma non comunque. Allora sono andata dal parrucchiere. Parlami delle fasi delle rimettersi su piazza. Allora. Da dove si comincia? Allora si comincia da tanti pianti, dalla chiamata di tutti gli amici per lamentarsi, finito l'amore. Tant'è che i miei amici hanno a loro volta fatto un gruppo di WhatsApp di sostegno tra loro per riuscire a sostenere me. Cioè per vedere se c'è qualcuno degli amici nel frattempo anche lui si era lasciato, poteva essere la consolazione. No, nessuno, sono tutti amici fidanzatissimi. Come se fossero eunuchi praticamente. Io ho cominciato a fare cene. Tu c'hai un harem di eunuchi che sono i tuoi amici. Esatto. Vabbè, no, basta saperlo. Ti consolano. Che mi consolano, amici e amiche, quindi ho istituito la cena fissa a casa mia, quindi ogni... E lì cosa fate? Riguardate le foto? C'è un gruppo d'ascolto, riguardiamo le foto. Io leggo ad alta voce tutti i messaggi di WhatsApp. Ascoltiamo insieme gli audio WhatsApp mettendoli in diffusione. È una sorta di liturgia. Quindi, in cui elaborate l'amore morto. Esattamente, suoniamo la chitarra. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Primo step, l'elaborazione del lutto. L'elaborazione del lutto, la chiamata, insomma. E fate anche macumbe, voodoo nei confronti di lui? No. Nessuno ne parla male. No. Anche perché lui che colpa ha, poveraccio. No, che colpa ha? Cosa ha fatto di male? Che colpa ha? Insomma, mi sembra un po'. Scusami, lui è stato onesto. Non è stato onesto. No, perché a un certo punto ha detto: guarda, tu da me, tu volevi sposarlo e farci figli, no? Con lui, questo era il tuo scopo. Sì. Ecco, poi già sei su piazza nuovamente dopo un mese che ti ha lasciato. Quindi, come vedi, la solidità e imperitura di questo amore dovresti rifletterci. Tu, questo uomo, sì, hai detto: l'uomo che sposerò, ci farò i figli, lo vorrò. L'ultimo uomo col quale andrò. Cioè, sì, a letto. Vi siete mollati nemmeno un mese fa, già stai su piazza. Allora, innanzitutto non è un mese fa, è successo a ottobre, novembre, dicembre, novembre, gennaio, dicembre, ormai 3 mesi, già sei su piazza comunque. Ma Sei rimessa su piazza quanto il giorno dopo? Un mese dopo. Un mese di lutto, un mese e 10 giorni dopo. Il primo mese non ti lavavi, non facevi più niente, così. Il primo mese non me lo ricordo. Beh, è stato, era buio proprio. Sì. Questo mese che vi scambiavate le carte di credito. Sì. Poi è ricominciato. Hai cambiato anche colore dei capelli. Sì. Quello fa parte sì. Uno cambia tutto. Ovviamente sì. Ritinge la peluria per essere nuovamente disponibile. Piccolo taglio, anche perché insomma io mi sto facendo crescere i capelli. Quando ci eravamo messi insieme io li avevo corti, quindi me li stavo facendo crescere. E lei tornano corti. Ho detto: così si vede la lunghezza del nostro amore. Ritagliamo. Perché la lunghezza del vostro amore non ti soddisfaceva? No. No, non lo so. No, nel tempo. Vabbè. Qui hai dato un taglio anche alla lunghezza del tuo amore. Quindi sei di pretese più modeste adesso. Assolutamente sì. Poi diamo un po' tinti. Sì, beh, sì. E ne fate sei in rossa, casa un po'. E che cos'è? No? Un po' sei, di rossa. Sei molto sei truccata e normalmente non ti trucchi. Sono truccata. Sei truccata. Sono leggermente truccata. Vabbè, rispetto alla tua norma acqua e sapone, figurati. Vabbè, è un trucco acqua e sapone. È una maglietta comunque sbarazzina che lascia intravedere le tue forme modeste. Però uno vende bene quello che ha. È qua. Sei su piazza, dai, si vede che sei su piazza. L'ho visto subito, eri lì seduta, ti guarda, si è rimessa su piazza. L'ho visto che la mia profezia si era autoalberata. E quindi poi sto cominciando anche a uscire di più. Frequenti altri uomini? No. Esco e. Esci che vuol dire esco? Esco a fare la spesa. Allora, esco. Uscite mirate. Vado, uscite mirate. Un'amica, andiamo a mangiare, poi andiamo a un concerto, poi andiamo a bere in un altro posto. Poi ma le amiche ti presentano loro amici a questo punto. Ma che? Ma sono sempre io che presento tutto. Sì, ma dov'è che vai a pescare allora? Andiamo a ascoltare la musica. Sì, ma dove speri di incontrare questo nuovo amore? Allora, io spero di incontrare un amore a un concerto, qualcuno che mi vede nella folla, viene da me e mi fa: ti offro. Sì, a parte questo, vai a serate culturali. Sì. Faccio quello che mi piace. Sei iscritto a una scuola di tango? No, allora io faccio quello che mi piace, perché vorrei incontrare. Vai a fare viaggi con avventure nel mondo? No, per carità, faccio le cose che mi aperitivi piacciono, in maniera che incontro persone che hanno omogenee. È inutile che vado a fare qualcosa che non c'entra nulla con me. Beh, va una partita di calcio Roma Lazio magari. Sono andata dopo il Sei Nazioni alla festa. Provavi con i rugbisti, sì. Non avevamo. Beh, hanno un taglio un po' più rude, loro vogliono sì, femmine, certo, di aspetto diverso. No, ma anche per, cioè, anch'io non, insomma, sì, non c'è, non ti regge il fisico, non dai. No, ma non è quello. Ti schianta, problema. Un rugbista ti schianta, dai. Vabbè, prima stavi con uno intellettuale, carino. Hai l'aspetto intellettuale che manca in quei capito? Casi. Rugbista è un po' materiale. È un po', sì, sì. Cioè, lascia il segno. Sì. Non cresce l'erba dove passa il rugbista. Non ti ci vedo, dai, poverino. Ti trovare un bel intellettuale con dei begli occhialini, un po' gracilino. No, magari un po' macilento, diciamo, con delle belle occhiaie che dimostrano che è ripiegato su se stesso. Comunque un aspetto sano è sempre gradito. Sì, sano, ma un po' quella sorta di tarlo dato dalla macerazione interiore. Sì, quello, un artista quello vuoi. Può rimanere negli occhi, però fa, insomma, sì, il resto, occhio, però un pochino, l'occhio un po' sofferente. Beh, lo devi vedere attraverso le spesse lenti, che sennò insomma, non cogli il lume della poesia che alberga in quella pupilla. Quindi niente, però vado in giro, nessuno mi parla, nessuno mi guarda, nessuno mi offre. Non ti calcola nessuno. Non mi calcola nessuno. Nessuno mi calcola. Hai provato ostentare una maggiore spregiudicatezza? Spegni sto telefonino, no, almeno mentre parli con me. sto cercando di mettere in modalità aereo. Modalità aereo, treno, modalità treno. Ti stanno mandando messaggi? Nei social ti sei mostrata con foto nuove? No. Cosa faccio stasera, non so che fare? Sì. Dio mio, no, come sono, no, sola? No. Nessuno mi porta, no, a prendere un aperitivo. Allora, i miei amici dicono che la prima cosa da non fare è far capire che sei in cerca, che altrimenti emani un'aura di disperazione. Chi si frega? Se sei in cerca, chi va in cerca di donne in cerca non chiede di meglio. Ma che... Non lo so, ci sono grandi dibattiti. E cosa ti dicono i tuoi amici? C'è chi sostiene che dimostrare di essere in cerca sia appunto un palesamento di disperazione, chi invece sostiene che fare la sostenuta e non dimostrare di, in realtà poi blocchi gli uomini perché pensano che te la tiri. Io ti dico, quello che blocca veramente gli uomini è quello che ha fatto tracollare il tuo amore. Tu a un uomo gli fai capire che vuoi sposarlo e farci figli subito, e questo chiaro, l'uomo scappa via gambe levate subito dopo 2 anni. Vabbè, ma dopo 2 anni, ma questo è giovane, è un ragazzino, pensava già, doveva pensarti averti lì con la pancia che sputavi. No, oh, vabbè, ma è una cosa bella. Ma che cosa bella? Bella cosa vita. Bella, non so, sì, bella, bella, ma un ragazzo a 20, tra i 20 e 30 anni non vuole pensare a quella roba. Devo cercarlo sopra i 20 e 30. Vabbè, devo trovare uno di cui mi innamoro. Tu resta attenta, tu lo sai cosa rischi? Rischi di scivolare nell'area quarantenni, pericolosissima. L'area quarantenni è off limits perché sono i più ricercati. Sì. Sono quelli che ramazzano sia in basso che in alto, cioè hanno sia dai 18 anni ai 60. Quindi hanno, diciamo, un carnet pieno. Seconda cosa, un quarantenne libero, free, non sposato e non fidanzato, un problema ce l'ha. O è un puttaniere o c'ha un problema. E quindi tu, da croce rossina che sei, ti accolleresti subito quello col problema che cerca un'altra mamma. Ti conviene passare subito ai 60 anni, secondo me. No, è così almeno stai tranquillo. 35, 33, nel mezzo del cammino di nostra vita. E ne beccare uno appena lasciato con la fidanzata. Sì. O rimasto orfano, gli è morta la mamma il giorno prima, e quindi tu lo becchi nel momento in cui c'è quel momento di disperazione. Non voglio approfittare di momenti luttuosi per entrare. Guarda, un 35enne oggi o c'ha la mamma o c'ha la fidanzata, se non c'ha la moglie, quindi dove vai? I più piccoli non credo, non è nel tuo stile. Un ex timido che fino ad allora non è mai stato fidanzato. Un ex timido. Appena uscito dal seminario. Appena uscito dal seminario. Eh sì, ma ho avuto un imprinting che non è proprio nella direzione di fare figli, secondo me, con te. Vabbè. Non lo so. Vado a cercare qualcun altro. Adesso sto parlando con te da troppo tempo. Mi devo alzare. E... Ti piace la moto? Sì. Ah, perché non vai ai raduni dei motociclisti, l'Harley Davidson? Quelli sono Ci figli. Sono andata, erano tutti grassissimi. E beh, che bevono birra dalla mattina alla sera. Erano giganteschi. Sono improbabili. Vabbè, trovo anche Mingherlino. Ti schiaffano nel sedile dietro la moto e partono. Se ti perdono per strada nemmeno se ne accorgono. Ma è bello quello. Ti usano come straccio per pulire le marmitte delle loro moto. E quello fanno il sogno della mia vita. Sì. Trova un maniaco dell'Harley Davidson. Quelli che vanno in giro per il mondo con tutti i giubbotti, con i tatuaggi. Non ti piacciono? Dopo 100 km, ma ci sei ancora? Io sto all'autogrill. No, ma non gli interessa lì. Sei un accessorio della moto per loro. A parlarci con la radio. Poi è una bella esperienza quella, sì, no? Diciamo le cose d'amore tra... Vabbè, tu adesso stai scherzando. No, non lo so. Tu vai a pescare sempre nella stessa melmaglia dove hai pescato il primo fidanzato? No. Rimarrei ugualmente delusa? No. Perché un uomo dovrebbe investire in te? Vabbè, ma io mi prendo tantissimo cura del mio uomo. Eh sì, ma in cambio vuoi figli, sposo, vita ma insieme. No, in cambio, cioè... Si leggera, tu dici, vabbè, io voglio uno per starci insieme, basta che siamo contenti, poi vediamo. Sì. Eh sì, ma devi dirlo sinceramente. E no, allora, far finta. Alleniamoci. Allora mi alleno. No. Ma io sono un fidanzato. Ciao, cara, bello. Da oggi siamo fidanzati, sono felice. Che facciamo domani? Ma io voglio. Cosa rispondi? Che facciamo domani? Ma no, tesoro, cioè, senza fare troppi programmi, io voglio semplicemente divertirmi. Voglio star bene. Ah, bene, andiamoci a divertire. Andiamo. Vabbè. E questo può andare avanti per un po' di tempo. Poi un giorno ti dirà. Voglio un figlio. Però il rischio è che lui dopo un po' ti dica: cara, ci siamo divertiti un sacco, adesso voglio divertirmi con un'altra, ciao. Ah, va bene, divertiti caro, ciao. Vabbè, così funziona. A presto. No, che amici presto. Come prima. Sì, magari per la ripresina ti cerco. Sì, in caso se avessi bisogno tengo. Sono qua. Non cancella il tuo numero. Lo so, vedi com'è la vita, è così. E poi ci sono gli amici di qui sopra che insomma, certo. Pronti così. Sì, diventerà nella schiera degli amici eunuchi poi. Esatto. Cara, io ti faccio i migliori auguri, cosa devo dirti? Mi auguro tu possa trovare ciò che cerchi, ma l'ideale sarebbe non cercare niente. No, infatti, assolutamente. Azzerare ogni desiderio, stare lì tranquilla, vedere come va, come butta, senza farsi mai grandi illusioni. Sì. atarassia. Atarassia totale, sì. Va bene. Va bene. Grazie. Alla prossima, spero di trovarti più soddisfatta. Sì, spero anch'io. Ciao, buon viaggio. Non bere però, ti prego. No. Cos'è quella bottiglia che c'è dalla bocca? È acqua. Sì, acqua. C'è già questa riserella tipica dell'alcolista. Buon Va bene. Viaggio. Ciao, buon viaggio. Ciao. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Io già mi meravigliavo tempo fa del fatto che molte donne confidassero nel mio consiglio nel raccontarmi i loro drammi amorosi, ma ancor più mi meraviglio, anzi sono sconcertato, del fatto che adesso gli uomini mi sottopongano le loro vicende maschili. Non c'è mai stato, penso, peggior confidente di maschi che io, che la mia persona, che la mia esperienza, che la mia riottosità genetica nel stare a ascoltare le storie degli uomini. Le trovo sempre poco interessanti, le trovo sempre banali, le trovo sempre ripetitive, ma questo sicuramente è un mio limite, perché sono incuriosito dalle storie di donne, per questo mi danno del marpione, quando sono l'antitesi anche di ogni possibile marpionaggine, in quanto goffo, in quanto sprovveduto, in quanto palesemente disarmato. Beh, questo signore mi pone un problema che sarebbe meglio che ponesse a un esperto di problemi coniugali, a un frate confessore, a un amico di bar, a un compagno di partita di calcio. Domanda a me come risolvere questo problema e proverò a rispondere. Caro Gianluca, sono un uomo di 39 anni, sposato da 3. La donna che ho voluto sposare mi ha conquistato in pochi giorni. Quando l'ho conosciuta ho capito subito che era quella giusta. Dopo 3 mesi siamo andati a convivere. Alla base della nostra relazione c'è stata una fondamentale attrazione fisica e poi anche complicità su tutto il resto. Carattere, interessi, visione del mondo. Ora non te la faccio troppo lunga a magnificare la nostra storia. Perché ti scrivo? Perché da qualche tempo ho un problema di desiderio. Ma non è il classico calo della libido dovuto all'inesorabile tempo che passa, ma a una situazione contingente che però si protrae e io la sto subendo. In sostanza, mia moglie, che ha 35 anni, negli ultimi 3 mesi ha messo su la classica pancia, un po' perché mangia male, spesso fuori casa per lavoro, con poca attenzione alla qualità del cibo, un po' perché ha smesso da 2 anni ogni attività fisica. Quindi mi trovo in difficoltà. Ho sempre pensato che la trasparenza sia la prima condizione per stare bene con una persona. Non voglio ora fare lo schizzinoso per una decina di chili sovrappeso, ma a me le ragazze rotonde non sono mai piaciute. Ho amici che, al contrario di me, impazziscono per le donne dalle forme generose e abbondanti, e ora mi fanno le battute sulle sue tette ingrossate. Mio caro, tu mi lusinghi, mi fai un grande onore pensando che io possa dirti qualcosa di risolutivo sul fatto che tua moglie si è inchiattita e a te non ti tira più. Che devo dirti? Ahimè, succede, il tempo passa, la fugace seduzione del corpo che le nostre donne hanno usato per accalappiarci logicamente va scemando come il tempo, ma va scemando anche la nostra attrattiva fisica. Guardati allo specchio, sei convinto di essere lo stesso di quando l'hai conosciuta? Sei convinto di essere sempre quel maschio splendido, quel corpo perfetto, quel ventre scattante e robusto che tu ostentavi probabilmente negli anni migliori della tua vita? Adesso hai un problema, indubbiamente. Tua moglie non ti piace più e tu attribuisci quel problema a qualche chilo in più, soprattutto nell'area addominale. Finora, dopo le prime difficoltà a letto, ho parlato di generica stanchezza e poi, in altri momenti della giornata, mi sono limitato a farle solo un paio di battute in modo affettuoso e leggero. Ma poiché la mia consorte mi conosce bene e lei per prima sa benissimo di essere ingrassata un po' troppo per i miei gusti, vedendo pure che non ho la stessa passionalità fisica di qualche mese fa, qualche giorno fa mi ha chiesto se avessi qualche problema con lei. Lì per lì ho negato. Ammetto di non aver trovato la formula giusta per dirle che è un semplice problema di chili e di forma. Le ho detto che non lo so nemmeno io perché ho il calo del desiderio. Le ho mentito, sperando che nel frattempo lei si mettesse a dieta. Come in qualche modo le ho suggerito di fare per motivi di salute e non per il mio desiderio sessuale. Però lei non si è ancora decisa a mettersi a dieta e la situazione non cambia. Nel frattempo lei ha cominciato a preoccuparsi. Forse pensa che mi piace qualcun'altra? Poi, ora che sento insicurezza da parte sua a letto, anch'io mi sento sotto osservazione e di conseguenza mi blocco ancora di più. Insomma, un casino. Da una parte non mi sembra bello dire alla propria donna che fisicamente non ti attrae, così come non piacerebbe a me sentirmelo dire se dovessi mettere su un po' di pancia. Però è anche vero che se non glielo dico chiaramente, mai potrò risolvere il problema. Quindi, che faccio? Lo so che non sei uno psicologo, ma non penso di trovarmi in una situazione così insolita. Mi piacerebbe avere un consiglio da amico, più che da psicoterapeuta di coppia. Grazie. Mio caro, tu la fai ben lunga. Tu pensi che con una dieta si risolva il problema. Tu pensi che con 4 kg in meno improvvisamente rivedrai tua moglie come l'oggetto assoluto di ogni tuo desiderio, di ogni tua concupiscenza. Non è chilo più, chilo in meno, non è un modello estetico, un modello fisico. È che la carne promiscua nella lunga frequentazione, anzi nella lunghissima convivenza, nell'allettamento contiguo e promiscuo che dura anni, dura decenni, dura tempo, pian piano abbandona la sua frenesia. È chiaro, questa donna la vedrai sempre più come, non so, la madre dei tuoi figli, la tua compagna, la vedrai sempre meno come l'oggetto assoluto di ogni tuo desiderio. Ma io farei come fa ogni persona normalmente in questi casi, alla fine fai finta di niente, cerchi per quanto possibile di ottemperare finché ce la fai, finché ti va, finché non diventa troppo pesante, a quello che viene chiamato il debito coniugale. E quando il debito coniugale non sarà più all'altezza, che ne so, fatti dare un aiuto chimico, lo fanno in tanti, c'è chi lo fa per andare con l'amante, per andare con donne di malaffare, per lasciarsi andare alle concupiscenze della lussuria più sfrenata, e chi lo fa per far bella figura con la moglie, o perlomeno per far sì che la moglie, almeno da quel punto di vista, non ti rompa le scatole.